Nell'Ottocento come comodo viaggiar, andar da Napoli a Milan sulla corriera. Stretti cuore a cuore si comincia a dondolar e tra le valli in fior ti prendi allora un po' di libertà. Quando arriveremo chi lo sa? Drin drin drin drin drin drin corre con la diligenza. Passa nel passare ognuno fa la riverenza. La mamma sta al finestrino, guarda i borghi e le città, il papà fa il pisolino, la figliola che cosa fa? Col pupillo del barone fila spesso e volentieri, in cassetta il postiglione guarda e finge di non vedere. Passa il monte, passa il mare, passa un mese, una stagione, non c'è fretta ad arrivare, canta allegro il postiglione. Hey! Drin drin drin drin drin corre balla diligenza, forse per l'autunno arriverà. Trottano i cavalli col festoso tintinnar e per i campi c'è un odor di primavera. Quando il primo sole ti saluta l'albeggiar, tra i suoi riflessi d'or tu senti allora l'estate che verrà. Quando arriveremo chi lo sa? Drin drin drin drin drin corre balla diligenza. Ma la notte scende nel viaggiar ci vuol prudenza. C'è il brigante Gasparone che in agguato sempre sta, barra il passo col trombone, più leggeri si partirà. La fanciulla casta e pura cade in braccio a un cavalier, poi finisce l'avventura, ma continuano che è un piacere. Passa il monte, passa il mare, passa un mese, una stagione, non c'è fretta ad arrivare, canta allegro il postiglion. Hey! Drin, drin, drin, drin, drin, drin, corre,